Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto. Questa settimana il nostro redattore Riccardo Silvi inizia così il nostro percorso con lui e gli diamo il benvenuto a Riccardo, mentre la regia è sempre assicurata da Alessandro Chiappini, ormai da 3 anni al di là del vetro a dirci i tempi e i ritmi di questa puntata che io reputo particolarmente interessante. Oltretutto penso così di dover esprimere la gratitudine alla signora Marica Venezia, benvenuta. Grazie. Perché la signora Marica Venezia mi ha molto stupito quando qualche giorno fa, qualche settimana fa, all'interno di un bellissimo programma curato da Roberto Olla sulla famiglia di Shlomo Venezia, di cui vi dirò, ha espresso così alcune caratteristiche di quella struttura profonda di quest'Italia che è stata ricostruita non solo con le grandi cose che scriviamo sui libri, ma soprattutto con le grandi cose, anche se sminuzzate nel quotidiano, che diciamo hanno portato questo paese a essere quello che grazie a Dio ancora siamo. La signora Marica Venezia è 52 anni, la sposa di Shlomo Venezia, che ha una purtroppo triste primato su i 14 sopravvissuti ai Sonderkommando, ai comandi speciali a cui i nazisti nei campi di concentramento delegavano il compito di sbarazzarsi dei cadaveri dei loro crimini, e come ebbe a dire Primo Levi, pure lui deportato presso il campo di Auschwitz, l'istituzione di queste squadre speciali rappresenta forse il crimine più grave, più abietto nel nazionalsocialismo, perché le SS così cercavano attraverso le loro vittime obbligate a cancellare le tracce dei loro misfatti, a far ricadere o quantomeno condividere lo stesso crimine sulle vittime stesse. Comunque Shlomo Venezia è l'unico sopravvissuto italiano a aver fatto parte di queste, e da 52 anni la signora Marica è a fianco a lui, anzi la signora Marica che ha avuto così questo compito di ricostruire intorno a quest'uomo una vita che poi diciamo lo ha reso padre, ora anche nonno pare. Sì, abbiamo 6 nipoti, grazie a Dio. E soprattutto anche 52 anni di una quotidianità vissuta così, costruendo cose pacifiche e normali. Sì, infatti abbiamo avuto una vita, diciamo, abbastanza normale, a parte i primi tempi che mio marito ancora aveva degli incubi, la notte sognava i tedeschi che correvano, e comunque una tristezza, diciamo, non normale nelle altre persone, questo ce l'aveva, però io lo capivo, gli ho voluto tantissimo bene, anzi l'ho aiutato, diciamo, nel mio possibile a uscire fuori, avendo poi i bambini. Io sono stata a casa 20 anni, mi sono occupata di loro, 4, 3 bambini più lui, facendo anche, insomma, sacrifici, diciamo, però mi sembrava necessario e importante. Io le dico subito che durante la bellissima trasmissione di Olla, dedicato all'esperienza di suo marito, c'è stato un punto in cui uno dei suoi figli narrava di una dinamica molto bella all'interno della famiglia, dove c'è un papà che inventava le favole. Poi ci spiegherà come fa un uomo così a inventarsi delle favole. Sì. E poi ad un certo punto però loro intuiscono che le favole cessano e inizia il racconto di qualcosa che purtroppo una storia inventata non è. C'è un dettaglio terribile su un cadavere. Lei insorge dicendo: ma quando mai? Io questo non lo avrei mai permesso. A me è sembrata proprio così l'emergere di questa bella definizione di pudore, ma non predicato, ma di pudore praticato. No, perché assolutamente noi abbiamo voluto che i bambini crescessero sereni. Certo, quando erano un po' più grandi hanno saputo che il papà è stato in campo. Papà è stato in campo, papà soffriva di mal di testa, papà non poteva fare certe cose, ma mai è stato raccontato, perché per molti anni non l'ho saputo nemmeno io. Il Sonderkommando è venuto fuori dopo, perché mio marito aveva come un pudore, perché gli sembrava solo di far del male raccontandolo e non del bene. E quando Alessandro ha detto questa cosa mi sono inalberata, perché sono convinta che non è stato detto quando lui era piccolo, ma molto più in là, e non nella favola, però lui associato queste due cose, ecco perché ho detto non l'avrei permesso, perché i bambini devono fare, secondo il mio modesto parere, una vita da bambini, non devono entrare in certi argomenti così difficili. Infatti mio marito dà le testimonianze, ma quarto, quinto liceo non vuole andare come vanno gli altri sopravvissuti anche nelle elementari o le medie, perché lui ritiene che il suo racconto è troppo duro, non è adatto a dei bambini. E questo è. Comunque anche per, diciamo così, età, anche lei è una perseguitata. Però a me, diciamo così, un'altra cosa che ha molto stupito è questa vostra, sempre all'interno di quel programma, e questa vostra serena scommessa sull'Italia, perché forse bisogna dire anche ai nostri ascoltatori che nei casi come gli italiani che risiedevano a Salonicco, Shlomo Venezia è stato arrestato a Salonicco, è nato a Salonicco nel 23, così come i sopravvissuti delle allora isole italiane dell'Egeo, di Rodi e le altre isole, alla fine della guerra giustamente hanno avuto una opzione da poter esercitare chiesta dal governo greco: scegliete la cittadinanza greca, conservate il titolo di proprietà, scegliete la cittadinanza italiana e siete, diciamo così, perdete anche i diritti garantiti. E nella stragrande maggioranza, tra cui Shlomo Venezia, avete optato per l'Italia. Da lui è stata una cosa un po' diversa, perché quando è stato liberato a Ebensee, perché lui dopo Auschwitz ha fatto ancora la marcia della morte ed è stato a Mauthausen, Melk, Ebensee, è stato liberato a Ebensee dagli americani, ha fatto ancora 4 mesi di campi, e quando sono venuti gli americani a liberarli, era vivo suo fratello, suo cugino, lui, e lui sperava di poter andare in Palestina, non pensava nemmeno di tornare in Grecia, e però stava male. L'ufficiale medico americano che gli fece le lastre vide che aveva la TBC, era malato e non poté neanche partire, la febbre altissima. Allora con il camion inglese l'hanno portato a Udine, sono passati da Villacco e sono entrati in Udine. Stava malissimo, è stato ricoverato al Forlanini di Udine, dove è stato 1 anno e mezzo. Dunque era una scelta quasi obbligata, parlando poi l'italiano, avendo la cittadinanza e sapendo che poi a casa non c'era più nessuno, la mamma e le due sorelle erano state uccise, il papà già era morto prima. Dopo una signora benefattrice gli disse che a Merano era stato fatto un ospedale dall'American Joint Committee che si occupava appunto di questi ragazzi rimasti completamente soli. Se voleva andare lì, l'aria era buona, c'era questo sanatorio. Insomma, tra una cosa e l'altra è durato 7 anni finché è uscito fuori vivo e in buona salute, e diciamo. E lei nel frattempo dov'era? Io sono nata in Ungheria, a Budapest. E poi sono stata in Romania nel 1949, sono finalmente riuscita ad uscire perché il mio papà e la mia nonna già erano fuori, a me non hanno fatto uscire. Nel 1949 ho raggiunto mia nonna e mio papà a Parigi e dopo Parigi abbiamo abitato a Nizza fino al 54, quando anch'io sono venuta in Italia per varie vicissitudini, dove mi sono fermata. E valeva la pena di optare per l'Italia, signora? Ma guardi, io ero apolide quando sono venuta qui, sinceramente, e a me questo paese piace molto, perché anche le mie radici erano un po' piccoline, io ero molto giovane quando sono andata via. La Francia mi piaceva, sono stata molto bene, però io penso che l'Italia è eccezionale come paese, e gli italiani ancora di più. Purtroppo succedono cose che non dovrebbero succedere, però forse in confronto ad altri paesi comunque è il migliore. Io le devo confessare che ho avuto il piacere di conoscere suo marito quando seguivo il viaggio di Benedetto XVI a Cracovia. Il giorno prima che il Papa si recasse a Auschwitz stavo con una troupe della RAI proprio a Auschwitz e ho incontrato appunto suo marito e Marcello Pezzetti, professor Marcello Pezzetti, che è un signore che sta dedicando la vita proprio alla ricostruzione. Il più grande storico della Shoah. Ma poi tra l'altro a me mi hanno stupito tutte e due la capacità di raccontare cose terribili con una così, questa specie di calma nel volto. E vedevo suo marito camminare nei luoghi dove c'era, diciamo così, il quartiere riservato ai Sonderkommando, che oltretutto i Sonderkommando venivano regolarmente uccisi perché fossero cancellati. Infatti nel suo libro, nel libro di memorie, Sonderkommando Auschwitz, Shlomo Venezia racconta che si è salvato la vita proprio con una intuizione che è durata un istante, perché su una fila che lo conduceva verso i forni, la camera a gas, ha incontrato un'altra fila di prigionieri che venivano portati nella direzione contraria, ha avuto l'intuito così, un istante, boom, insieme al fratello, di voltarsi e di prendere l'altra direzione, salvandosi così la vita. Qualcosa che è durato proprio così, lo schioccare di un secondo, e questo vale una vita. E io vedevo anche questa sua grande calma mentre in famiglia raccontavate davanti agli occhi della telecamera, però nel suo libro lui dice che non è mai uscito da quel luogo. No, infatti questo di raccontare così con una calma piuttosto apparente, perché dopo si sente tutto, dice, mi sento ribollire il sangue, però siccome ha cominciato a parlare nel 1992 e sono 50 volte che accompagna gruppi ad Auschwitz da allora, e siamo andati in tutte le scuole, siamo andati dal nord al sud, da Udine fino giù a San Cataldo in Sicilia, Nuoro, dappertutto, a fare le testimonianze, ha imparato a parlare in un modo un pochino distaccato, perché sennò gli viene il nodo in gola, gli viene da piangere, perché quando lui racconta, io posso raccontare perché ormai potrei raccontare tanto, ma lui lo vede con i suoi occhi, lui è lì mentre la gente si spoglia, mentre poi aprono la porta, ed è terribile ed è molto difficile. Però visto che bisogna parlare spesso con ragazzi eccetera, ormai ha imparato a moderarsi. Eppure c'è una memoria che ha preceduto qualunque altra memoria, che è quella che nella vostra vita familiare vi ha portato a insegnare ai figli altro. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Marika Venezia, la nostra guida questa settimana. Stiamo parlando, diciamo così, di uno dei monumenti che noi riteniamo la forza culturale forse del nostro Occidente, che è quello che la straordinaria capacità che le donne hanno di diventare prima spose, poi mamme e ora nonne, e nella quotidianità costruire la storia vera, quella di tutti i giorni, che è una storia che precede le altre storie, perché sempre riferendomi a quello che erano le mie impressioni durante la trasmissione di cui stiamo parlando, c'è una storia fatta di quotidianità, dove ai figli si insegna per esempio a crescere onesti, a crescere laboriosi, a crescere, diciamo così, uniti e aperti agli altri, perché uno dei suoi figli diceva durante quella trasmissione: non ho mai sentito mio padre, mai, neanche dopo che ci aveva raccontato tutto, dire una parola contro il popolo tedesco, contro la Germania. Ecco, questa è una cosa molto importante. Infatti lui era così emozionato, non è riuscito a parlare molto. Quello è il più giovane dei nostri figli, malgrado non abbia capelli, lui è il più giovane. E questo è così, perché io personalmente mi sono stupita. Mio marito ha lavorato in albergo molti anni. E io all'inizio domandavo: ma se viene un cliente tedesco, tu come ti senti? Questo le parlo 57, 58, 59, che non erano tanti anni passati, considerando i 7 anni di malattia. E lui mi ha detto: niente, io faccio il mio lavoro, e se mi chiedono come mai parlo tedesco, gli rispondo che la nonna di mia moglie parlava ungherese e tedesco e mi ha detto di scegliere quale lingua per poter parlare con lei. Allora ho detto il tedesco, e questo è tutto. E infatti qualsiasi testimonianza lui faccia, dovunque parla, mai odio o rancore, mai. Racconta i fatti che sono successi, però, e questo gli fa molto onore. Però vedi, io sono un prete cattolico a 33 anni, lei non è cattolica, però in realtà se usiamo delle parole, tipo la parola famiglia, poi non abbiamo, diciamo così, girato intorno alla parola amore, però poi le chiederò quando ha incontrato Shlomo Venezia, perché poi in realtà usiamo delle parole che, nonostante la differenza di età e la differenza di cultura, hanno lo stesso significato. Ma certo. Invece in realtà, oggi come oggi, abbiamo una difficoltà a dire, cioè in realtà lì siamo, anche se provenienti da altre strade, ad un certo punto istantaneamente italiani, perché usiamo delle parole che hanno lo stesso significato. Invece oggi abbiamo l'impressione che queste parole, che ancora fino alla mia età interagiscono con due generazioni diverse, ci fanno, diciamo, legare sostanzialmente su una stessa identità che va al di là delle differenze, invece oggi sembra che queste parole sembrano fatte apposta per dividere, per stabilire dei muri, per dire no, tu non parli come me, tu hai un altro significato, tu vieni da un'altra storia, tu te devi andare altrove. Guardi, tutti i nostri migliori amici, i miei migliori amici, sono tutti cattolici. Io sono andata in Francia a scuola 4 anni in una scuola che era non dalle suore ma delle signorine, c'era la cappella, tutte le mattine io andavo con le mie amichette, facevo tutto il mese mariano, tutti i giorni cambiavo i fiori eccetera. Poi io sono molto aperta, cioè voglio dire, se lei non disturba me, mai mi permetterò di disturbare lei. Oppure, se parliamo la stessa lingua, io penso che indipendentemente dalla fede religiosa, se si è una persona come si deve, retta. Mio marito dice sempre, io rispetto i 10 comandamenti, io quello è il mio credo. E io personalmente dico, quando io sto a posto con la mia coscienza, qualsiasi cosa succede, io sono a posto davanti a Dio, anche se non vado spesso in sinagoga. Sì, ma infatti io sono stato in una parrocchia romana a Monteverde dove, diciamo, erano presenti anche, abitavano diversi, diciamo, parrocchiani di religione ebraica. Mi ricordo ancora le prime volte che andavo in giro per la benedizione Pasquale. Per la benedizione pasquale, il parroco mi diceva, guarda, anche se non hanno scritto che vogliono una benedizione, suona e salutali, perché si fa così. E infatti era un piacere, diciamo, certo, comunque suonare e sentirmi chiedere notizie del vecchio parco, del vecchio fratello, di chi teneva il campetto dove avevano giocato, in questa interazione dove ad un certo punto si era portatori di un qualcosa di diverso. Ora io mi domando e mi chiedo con una certa preoccupazione, persone come suo marito e come lei, che siete riusciti a tenere appunto in piedi, a ricostruire in anni difficilissimi un'Italia dove in questo tessuto, quando usavamo la parola famiglia, quando usavamo la parola amore, la parola figli, la parola nipoti, hanno, diciamo così, un significato che ci identificava direttamente come uniti comunque da qualcosa che superava le differenze, in questo mondo dove stanno tentando costo che costo di nuovo a farci dividere. Cosa potete dirci? Cosa dovete dirci? Cioè, forse è importante che si abbia la memoria di quello che è stato, perché... Guardi, io dico sempre che oggi, vede, anche i ragazzi che si sposano, dopo un po' si lasciano. Non ce la faccio più. Mi è capitato tante volte di sentire. Che vuol dire non ce la faccio più? Cos'è? Un sassolino nella scarpa? Oggi ci si conosce molto di più di prima. Io mi sono sposata, avevo 17 anni. Mio marito ne ha 32, ci sono 15 anni di differenza tra noi due. Ci siamo visti forse 5 volte, perché lui lavorava, dopo tutte quelle sue vicissitudini, ha fatto la scuola alberghiera e lavorava a Rimini. Io abitavo a Grottaferrata. Non c'erano soldi per fare avanti Andrei. Io non avevo il telefono, il telefonino non ne parliamo. Eppure abbiamo deciso di sposarci e siamo stati felici. Non sempre è stato facile, spesso era molto difficile. Prima di tutto per la differenza di età, di cultura, di tanto. Però se ci si vuole bene, oggi una donna non si dedica così a un uomo. Questa è una cosa che forse prima era più normale. Oggi non lo è, perché loro si sentono superiori perché lavorano. Io ormai sono 30 anni che lavoro, parlo 5 lingue. Cioè voglio dire, ma mai che io mi metta avanti che sono più brava io di te. E questo po' di umiltà, secondo me, oppure ecco, seguire i ragazzi, dove vai, con chi sei, telefonare, come mai non torni, non lasciare una libertà totale pur di essere lasciati in pace, perché spesso i genitori non vogliono, vai, gli danno i soldi e vai. Questo è il mio parere, poi non so. Ma lei ha 17 anni quando ha incontrato il suo futuro marito. A 15 l'ho incontrato. Ha avuto l'impressione che, diciamo, sarebbe stato comunque una storia in cui bisognava metterci quello che in genere ci si mette, più qualcosa di più? No, guardi, quando io l'ho incontrato era un bellissimo ragazzo, moro, magro, bellissimo, sembrava Tyrone Power, che era un attore famoso a quei tempi. E ci siamo incontrati andando a lezioni di inglese. Abbiamo frequentato queste lezioni e lui era un po' ombroso così, ma non sapevo niente della sua storia. Addirittura non sapevo neanche che si chiamasse Salomone, Shlomo, perché lui tutti lo chiamavano Bruno e io lo chiamavo Bruno. E anche questo c'è una storia. E io ero pronta, perché ero già matura per certe cose, avendo avuto anch'io una vita un po' travagliata, diciamo. E una volta che ho scelto di fare quello, per me l'ho fatta nel migliore dei miei modi. Bene, signora, grazie, perché oggi credo ci abbia veramente spiegato perché, come diceva un motto molto, molto caro alla mia generazione, spesso a volte, diciamo sì, per ottenere il bene bisogna essere ambiziosi, perché diciamo, essere ambiziosi nella vita, saper costruire qualcosa di difficile, poi alla fine si costruisce la vita vera e non ci porta attraverso i sentieri del facile a costruire il nulla. Grazie per essere stato con noi, signora, grazie a voi per la vostra pazienza. Risponderemo anche alle mail che abbiamo ricevuto dopo la puntata della settimana scorsa. Grazie a Riccardo Silvi, Alessandro Chiappini, a risentirci.